sull'esempio del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il Musalli, dopo il Taslim, fa seguire alcune recitazioni devozionali tratte dalla sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice tre volte: Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, che significa: chiedo perdono ad Allah, all'infuori del quale non c'è divinità, il vivente, il sussistente, e a lui faccio ritorno. Poi, Allahumma anta salamu wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. O Allah, tu sei la pace e da te viene la pace. Sii benedetto, o titolare della dignità e della maestà. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Minkal jad, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu, la hun ni'matu wa la hul fadl wa la hul thana'ul husna. La ilaha illallah mukhlisina lahud-dina wa law kariha al-kafirun, che significa: non c'è divinità tranne Allah, l'unico titolare della qualità divina, il quale non ha socio, al quale appartiene il regno, al quale è dovuta la lode, a lui il quale sopra ogni cosa ha potere. Da te viene la buona sorte, non c'è né potenza né forza se non grazie ad Allah, non c'è divinità tranne Allah, noi non adoriamo che lui soltanto. A lui appartiene il potere di favorire e di fare grazie, e a lui è dovuta la lode più bella. Non c'è divinità tranne Allah. Con sincerità noi dedichiamo in esclusiva a lui il nostro culto, anche se coloro che rifiutano di credere odiano tutto ciò. Poi, per 33 volte, dice Subhanallah, che significa: incondivisa è la divinità di Allah. Poi dice ancora 33 volte Alhamdulillah, la lode è dovuta ad Allah. Poi dice ancora 33 volte Allahu Akbar, Allah è il più grande. Poi La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Non c'è divinità tranne Allah, unico, non socio a lui il regno e a lui la lode appartengono, ed egli su ogni cosa ha potere. Dopo viene fatta seguire la recitazione di Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Che significa: Allah, non c'è divinità tranne lui, il vivente, il sussistente. Non lo prende sonnolenza e non sonno. A lui appartiene ciò che esiste nei cieli e nella terra. Chi è colui che intercede presso lui se non con il suo permesso? Egli sa ciò che è davanti a loro e ciò che è dietro loro, e non sanno di lui se non ciò che ha voluto far sapere di sé. È sufficiente il suo sgabello a comprendere i cieli e la terra, e non lo affatica la conservazione di loro due. E egli è l'Altissimo, il Sublime. Dopodiché recita la Suratul Ikhlas, la Sura 112, la Sura 113, Suratul Falak, e la Sura 114, Suratul Nas.